Ehi, Gianfra, io non vedo. Oh. Allora, che si fa? Che si fa? Nulla. Guardate, i 16 ci sono andati a Vapa a venire a casa. Per carità, fra un po' volevamo avere anche il conto corrente in banca. Vabbè, insomma, non stai comprando, sono tanti soldi comunque, è comprensibile, dai. Se lo vuoi provare ti rendi conto se va bene o male comunque. Sì, sì, non c'è problema. Non lo fa più quando l'accendo. Come mai? Tu gli hai tolto il tono? Perché volevi che facessero il tu? No, non mi interessa, però ho notato questa cosa, capito? No, c'è la possibilità di metterlo anche manualmente, credo. Però non ci ho fatto caso, onestamente, ero troppo occupato a metterci le impostazioni USB che ci interessavano. Accendilo sul solito, quello che sai, denominato SX, ne hai due, uno in V e uno in U, a noi ci interessa quello in U, per questioni pratiche. Sì, denominazione SX, gruppo di MR, quello? Sì, sì, quello che abbiamo provato quando te ne sei andato. Sì, vabbè, perché poi ho cambiato e quindi non mi ricordavo più qual era. Va bene. Sì, ce l'ho già acceso, non c'è problema. Mi senti? Sì, sì. Sufficiente la prova in digitale, più che sufficiente. Chi è che può entrare anche alle 10 avanti? Ciao Claudio, buonasera. Oui, ciao Fra, buonasera. Compagnia Gianfranco, stavamo facendo la prova banda amatoriale sul digitale. Va bene, avanti Gianfra. Sì, buonasera, va ascoltato. Sì, va bene, c'è anche una voce molto molto prepotente anche lì, non so se come sentivi la mia, se andava bene, ma è un po' bassa perché quello, ho visto che il volume è proprio, non è che ne abbia più di tanto. No, anche tu, abbastanza buona come modulazione anche lì. E adesso domani mattina mi provo quei tre microfoni, se ce l'ho invertito, inverto. Capito? Vediamo un pochino. Ok. E beh, Fra, cosa ci racconti? Intanto saluto Gianfranco. Pensavo non ci fosse nessuno, ho fatto un paio di bic, invece poi sei fatto tu, a parte, diciamo, tra virgolette. Tutto a posto, dai, tra bene o male. Ho capito. Giuseppe, non stai uscendo, niente radio. Cioè Giuseppe intanto pigia e prova e sta provando il microfono, ma non ha radio. Non stai uscendo Giuseppe. Controlla bene, se hai sbagliato qualcosa. Ok. No, io di solito non rispondo ai bip, se non chiamano non rispondo, però. Ho visto sto bip, ho detto avanti chi vuole entrare, ma c'era già Gianfranco qui, se no. Io quando pigiano il bip o fischiano, Fra, non mi chiamo né bip né fischio, mi chiamo Claudio, quindi quando la gente vuole chiamare qua sul 10 si presenta, sì, io sono qua, rispondo, ma non rispondo a queste cose. Avanti Gianfra. Sì, per me lo stesso, se sento portanti o rumori strani, ma di norma non rispondo mai, perché perché no, se non fa chiamata, si risponde. Ma se non ci sono bip, niente. Ti sto cercando da fare, cioè, il connettore, ne ho uno, devo guardare, ne dovrei avere anche un altro, così domani me lo porto appresso. No, Gianfra. No, lascialo stare che già vado io a prenderlo domani mattina. Vado io a prenderlo. Che Tonino ce li ha, l'avevo già visto, l'ho comprato per il Voxel, è uguale a quello del Voxel. Capito? Quindi, in alternativa uso quello del Voxel, non ti preoccupare. Lascia stare tutto com'è. Avanti Giuseppe, dimmi. Sì, avanti. Avanti Giuseppe. Giuseppe. Ti sento, ma poco fa non stavi uscendo. E perché fermo quello da tavolo se stavo uscendo bene? Ma stai parlando di quello da tavolo? Ho capito. Ti sento, ma non ha niente a che fare con quello da tavolo. Quindi risalda il filo a quello da tavolo perché è molto più forte la modulazione. Capito? E questa è anche il cupa come modulazione, non mi piace. Ho capito. Va bene. Allora rifai nuovo. Va bene. Ok Giuseppe, non so se Franco ti sente, Fra lo senti a Giuseppe, no? No, negativo, mi dispiace, ma continua a non sentirlo. Ma diciamo, hai preso apparecchio portatile nuovo? Sì, la parte digitale mi mancava. E quindi ho preso la parte DMR, UHF, UHF. C'è molta differenza? È un altro pianeta, non è che c'è differenza, è proprio completamente un altro pianeta. Uno è analogico, l'altro è digitale, quindi sono due pianeti completamente diversi. Tu immaginati che c'ero seduto qua, dove sono adesso, con l'antenna interna, parlando con Gianfranco, con lo scalapieni tutti e due. Capito? Quindi è un altro pianeta. Vai Gianfra. Sì, ciao Giuseppe, buonasera, non so se mi sente. Io sento comunque abbastanza bene. Sono delle prove che stavamo facendo, ogni tanto con Claudio le facciamo. E niente, adesso vorrà trovare un connettore particolare. Speriamo che ce l'abbia, Claudio, perché oramai quelli non hanno più un tubo. Comunque nel caso non ce l'abbia, se c'è problemi, io te lo procuro istantaneamente, ecco. No, Gianfra, perché è uguale a quello del DMR, sono sicuro, va del Vox, sono sicuro. Quindi ce l'ha, me l'aveva già fatto vedere. Perché ho visto l'antenna ed è uguale a quella del Vox, capito? È uguale a quella del Vox l'antenna, perciò sono uguali. Stesso attacco, domani mattina, ma non è che ci farò presto, intanto lui prima alle 10 ti ho detto non apre. Ci vado e me lo prendo, non ti preoccupare, tienilo quello lì. Così dopo l'attiva mi sistemo anche il microfono. Almeno sul microfono so poter stare sempre spostando la radio a destra e a sinistra. Vediamo Giuseppe, vieni avanti. Franco ti saluta ma non ti sente, Giuseppe. Lo so. Ma non ti sente. Una parte per colpa tua, una parte per colpa sua. Perché anche lui è nelle stesse condizioni tue, capito? Quindi non vi sentite a vicenda. Vabbè, comunque ti saluto. Avanti Fra. Capo, grazie per avermelo salutato. No, l'altro, non mi pare, come si chiama, l'amico di Alghero, ci siamo parlati, quindi se le riesci a migliorare qualcosa da lui magari riesco a copiarlo. No, uno è Gianfranco e non è ad Alghero che è nella zona canica. L'altro è Giuseppe, il tuo ex collega di lavoro, però non ti sente, non lo senti. No, intendevo dire l'altro amico di Alghero che abbiamo fatto una sera, una cena assieme, che adesso non mi viene il nome, siamo riusciti a comunicare con lui. No, Valerio è in zona più aperta per Sassari e poi ha più ricezione, anche c'è la Mantova, capito? Giuseppe è un po' più coperto, quindi con Valerio riesce a comunicare sì senz'altro. Va bene. Avanti io, Gianfra, riprendi. Sì, infatti. Io non so se Giuseppe a me mi sente, però l'altra volta non mi sentiva. In AM è purtroppo difficile, capito? In FM magari si riesce ad arrivare, ma così è un po' difficile. Ci provo. Giuseppe, mi senti? Giuseppe, l'hai sentito a Gianfranco? No, no, non ti sente, Gianfranco. Non so perché, non so. Evidentemente c'è qualche... Evidentemente c'è qualche problema lui. Io lo sento senza problemi, dovrebbe essere un disastro. C'è qualcuno sotto? Non so chi è. Chi è che vuole entrare, se dici? Pirata, pirata, buonasera a tutti. Sono entrato per un saluto che sono attaccato alla televisione. Allora cacchio, io ti salutare. Come amico tuo fai? Tu ma sicuramente non c'è mai nessuno e poi tutta la sera alle 23. No, ciao a tutti, dai. Ho sentito anche Franco dopo tantissimo e sono contento che sia entrato, dai. Dai, vi saluto, ci sentiamo. Ecco, ciao Marco, anche a te ben sentito. Va bene, ciao Marco, buonasera, ben ascoltato, buona TV, ci sentiamo. E io sino alle 7:30 poi vado a portare il cane. No, ho capito, mi sto per dirtelo, perché l'altro giorno gli ha detto vai dove c'è gente, e quindi giustamente lì, e noi siamo qua. Vabbè, ognuno può fare l'isio che li bai arrabbiati. Vai Gianfra. Sì, ciao Marco, buonasera, ma in televisione a quest'ora, deve essere proprio già la mentalità del vecchio pensionato. Ma che Marco? Ehi Marco, c'ha mentalità diversa dalle nostre. La televisione mi guarda adesso, ma dai, a Barbara D'Urso, o Maria De Filippi, mi guardo un TG, poi c'è qualche film, qualcosa che mi interessa, se no si abbiglia. Vediamo un po', avanti Giuseppe, comunque non senti nessuno, né Gianfranco né Franco, così è. Ecco, ho capito, c'è quel rem. Ciao Fortunato Lacchi, e noi Esese, capo del Rogero Fortunato, va bene, forte e chiaro, è che stava parlando l'amico di Alghe e quindi non lo sentivi, va bene, avanti fra, ripeti. No, non sento neanche Fortunato, caso strano, fare così. Per quanto riguarda quell'adattatore per antenna, diciamo, io l'ho preso da Fusaro, mio è un classico. Ma non tutti sono uguali. Beh, quello che se il portatilino non avessi da quello ce l'avevo, l'ho preso però da PL al piccolo, diciamo, un gigante, BNC, non facevo un altro modello quella tanto. No, no, questo no, SMA è un casino. Sono diversi. No, ma già ce l'ho, non ce n'è problema. BNC ne ho, trovavo io, che avevo comprato. Ormai la radio BNC non viene più, sono tutti attacchi SMA. Così è Gianfra. Sì, sono tutti SMA, potrebbe essere maschio o femmina, però sono tutti, la maggior parte ormai sono tutti di quel tipo qui. Bisogna sempre trovare i connettori, ecco. Diciamo che il problema è che sono talmente, questi SMA sono talmente delicati anche che quando li usi con questo coso, con l'adattatore collegato a un'antenna esterna, è sempre opportuno aver preso il microfonino, perché sennò ne tracci tutto. Sì, infatti mi correggo, SMA l'attacco, sì. Diciamo io dovrebbe essere l'attacco dal, che esce dal portatile è maschio e l'antenna c'è il buco per femmina l'antenna. O viceversa, a seconda del portatile. Sì, tu come dici tu, quando c'è anche un cavo è un po' pesantuccio, meglio lasciarlo fermo. Sono scende tutto. Riprendi qua. No, ma il mio è a livello veicolare oramai quello. Non proprio, rimane lì. L'attacco è semplicissimo perché arriva dalla finestra e ci metto il microfono, cioè va bene. KK, va bene che va bene. Con comunque visto Gianfranco, prove tecniche di trasmissione, ok. Questo domande è stato il connettore esterno al troppo lato. La direttiva sia in V che in U. Vediamo un po', Giuseppe. Giuseppe, mi dispiace, ma non senti a nessuno, cosa vuoi dica? Va bene, va bene. Prepara todos. Già siamo qua noi. Non c'è problema. Io ho dei sbalzi allucinanti. Corra, aspetta un attimo. Ora, mo. Che sbatti? Di radio o di che cosa? O di tensione? No, sbatti di potenza purtroppo, perché stanno iniziando a girarmi le barre con questo contattore. Sto facendo una misurazione di gommini che mi sono arrivati dalla Cina, ma me ne scappalati già a volte. In UHF già vanno bene, ma in UHF, quattro stazionari, Nelle antenne, i gommini come antenne? Sì, dei ricambi per portatili. In UHF vanno bene, sono starate discretamente, ma in UHF sono un po' così. L'analizzatore mi dice che hanno un pochino di stazionarie, addirittura quattro inizia a essere un pochettino troppo. Sono bibanda, però per quello che costano sono uguali a quelle là, sono tutti antennini con l'attacco SMA femmina. Siccome qua portavano troppo in Italia, li ho presi dalla Cina, sono arrivati dopo un mese, però in compenso me l'hanno dato una gas, me l'hanno dato 5 al prezzo di 1, quindi va bene così. Ci hanno messo molto tempo a arrivare, no? Li ho presi a gennaio, intorno al 15, credo, e sono arrivati ieri, quindi praticamente un mese da spedizione gratis. No, ma arriva, anche mio figlio ha voluto ordinare qualcosa, alla fine neanche ci spera più, perché poi arriva. Sì, infatti, ma è perso la speranza. Ecco, ma sono... Beh, dei ridori sicuramente non ordinano roba seria, però arrivano. Beh, diciamo entro il range di 150-200 euro, si può anche fare. Arriva quando c'hanno dei giudizi utili. Sai, loro fanno approfittare anche la rogna della dogana, fanno queste spedizioni così che girano un po' mezzo pianeta. Ma io avrei preferito pagare un po' di più, fare la spedizione e mandarmelo con la DHL magari. Cioè quasi sempre spediscono con DHL, però è DHL economica che questa volta ad esempio va mandato in Germania, poi dalla Germania si è fatta una passeggiata e finalmente è arrivato in Italia. E chi? No, è materiale che ordina dalla Cina, capito? Un po' quando la spedizione è gratuita, però vabbè, di norma è roba di cui non c'è proprio necessità, no? La prendi giusto per averla. Vabbè, ma intanto mi capita anche queste cose. No, io a volte rimango perplesso. Io l'altro giorno quel programma che hanno fatto dei NAS, Pesce Maria Gara, hai visto, frate? Su che cosa? Sto uscendo, sì. Non ho capito niente, avete parlato in due. Chi è questo barone? Non ho capito. Oh, no, perché non si è entrato a salutarlo, eh? Non ho capito, ma lì non c'era il comandante, lì c'erano marescialli, c'erano lui. Non fa fatto un ambascia, un carrozzone di quelli che vendono panini, hanno fatto centinaio di multe perché non c'era tracciabilità del praticamente degli alimenti che loro avevano preparato. Un bel programma, e già ho visto tutto io, sì, non ho passato anche a Sassa, ce ne vorrebbe di questi controlli. Quindi si ricordano che ogni tanto bisogna fare pulizia nei posti dove ci sono alimenti. Avanti Gianfra. Quella già non avevamo vittano. Già ce ne sono di posti da non metterci neanche piede, sporchi, che per carità. Ogni tanto ne piscano qualcuno. Ma quando sono stranieri, eccetera, tanto hanno mille nomi. Lo chiudono, poi lo riaprono con altri nomi. E poco da chiudere hanno lì, o poco da aprire. Tanto una volta che loro entrano, hai perso, capito? Hai perso. Perché ti controllano, continuano sempre a passare e a controllare, capito? Tutto lì. Avanti Franco. Sì, ma chi è entrato? Capri 2? E a fare la spesa sta andando, già torna dopo. No, perché prima lo sentivo bene, oggi invece lo sentivo, cioè quasi zero a livello di QRM, molto molto basso. No, d'accordo, allora ti sentiamo dopo Gianni. Avanti Franco, cosa hai detto? No, non lo tiro fuori, è entrato qualcuno poi sotto. Sì. Sì, dovrebbe essere Fortunato, avanti Fortunato, dove sei? Fortunato, un abbraccio grande, buon rientro, buon tutto, se coincide a domani, grazie Musinoghe, avanti Gianfra. Sì, anche io lo sento bene comunque, buona serata, buon rientro, anche io mi sto allontanando Claudio, che devo fare una cosa in un altro settore, ci sentiamo più tardi magari, se ci sei. Ehi, io recentemente vado a portare il cane, poi rientro, già sono qua. Avanti Fra. Sì, intanto saluto Fortunato, allora l'ho tirato fuori alla grande. E saluto anche Gianfranco, dai, riprendi qua. Ehi, va bene, non problema. Già rientro lì troppo Gianfranco, dai. Ehi, e le frequenze sono diverse di questi portatellini, questi digitali. Sono frequenze amatoriali Fra. Sì, ma dico, cambiano o sono le stesse che puoi usare in analogico, no? Cambiano ancora? No, sono le stesse, sono altri punti, altre cose, ma in linea di massima sono sempre quelle, però l'emissione in digitale anziché analogico. Ma tu non puoi parlare, cioè, in analogico con uno che è in digitale? Non capiremo niente, né uno né l'altro, dobbiamo essere tutti e due, o in digitale o tutti e due in analogico. Sì, è un casino, cioè, perché usando le stesse frequenze si possa anche disturbare una con l'altra, c'è cioè, la parità di canale, di frequenza. No, ma intanto gli SWL non ascoltano neanche se non hanno digitale, quindi non... Oramai a circuito chiuso stanno facendo le cose, capito? Quindi è un casino. Frequenze blindate, brutto. A me la modulazione io non senti, è come si è captata la voce, capito? Come cellulare, dai. No, intatta, senti, oppure però la voce non la senti, non la puoi mai sentire se non sei in digitale. Sì, ormai sta prendendo piede, ce n'è gente. In tutta l'Italia a piede. Qualcuno era un po' più su queste cose, invece mi sa che sta prendendo piede, dai. Pirati siete, pirati. No, vabbè, per noi l'animatore è normale che siamo obbligati quasi a usare sia la parte analogica che la parte digitale. Mi spiace per SWL perché sono spese in più che uno deve fare, prima con un ricevitore ricevevi tutto, adesso tra il sistema Tetra e tutti gli arrivatori che stanno passando in digitale, compresi anche i punti digitali, SWL ha poco da ascoltare, capito? O c'ha il ricevitore col digitale, o altrimenti se la prende in gomma del vostro. Ciao a te, buonasera. Buonasera. Cos'è quella foto mai mandata? Un tempio, così, a carnevale. Cos'era? Perché ho visto uno con le scarpe antifortunistiche. Di servizio, vedi? Era di servizio, allora. Sai, perché tu oramai hai preso questa moda, le scarpe antifortunistiche, non ti ho detto di manca a dormire. No, no, le ho lucidate oggi. Ma quelle nere o quelle marrò? Marrò chiare. Perché ne hai un paio, sono anche nere. Vabbè. Tienitele conto, sai, perché sai, vanno bene, sono antiscivolo, quando piove non cadimi. Vai fra per Stefano. Sì, ciao Stefano, ben sentito, riprendi. Buonasera anche a te, ben ascoltato. Un periodo che sei a Satari, sì? Sì, sì. Definitivamente o no? No, no, no. Definitivamente no, fra l'inizio, cioè, prima del mese rientro al QTH a lavorare. Bene, un po' di ferie? Sì, sì, io sabato ferie alla grande, già da domani me ne vado ad Olbia, ora mi prendo, sono lì. Ma abiti lì, giusto? Diciamo che abito lì. Ho la residenza, no. Sì, risiedo lì, ma dove si qua? Lui in cielo, in terra e in ogni luogo, capito? Ho capito, ho capito. No, vai a Olbia domani, tutti domani, io non ci so, domani mattina. Ho un impegno di lavoro, andare ad aiutare un amico. Va bene, va bene. Ma intanto vedo l'antenna, deve essere la sua, quella che vedo, questa. Lungo la ferrovia, passando verso il tramonto di reazione. Che antenna vedi? È una Delta Loop? Sì, sì, è quella. Si vede, passando oltre non si vede benissimo. Certo che si vede, grande grande. Attenzione, mi sai che Franco fa i controlli di linea ferroviaria. Piglia la mola, braga, dobbaci, scega venire. No, è nuova nuova, è lucida lucida. Appunto per quello. Ehi, comunque il tetra non è radiomattoriale. Cosa, quella lì? No, no, no, mi riferisco, prima hai detto che i sistemi tetra, stavi parlando adesso che i sistemi tetra, quelli non sono radiomattoriali. No, no, lo so, infatti ho detto, tra il sistema nostro amatoriale, no, radiomattoriale, quindi analogico e digitale, più il sistema tetra, invece avuto più L, oramai non ricevi più nulla. Beh, diciamo che se il WL si è un personaggio sveglio, riesce anche a ascoltare il Tetra, si ascoltare il DMR, si ascoltare il C4FM, si ascoltare questi sistemi digitali che proprio sono un po', volgarmente detto, criptati. Ecco, poi mi correggerà Gianfranco se c'è ancora, mi sembra di averlo sentito. Sono un po' criptati, però con alcuni software, diciamo che un ascoltatore che, ripeto, è un po' furbetto, un po' sveglio, riesce a sentirli nonostante siano blindati. A te ancora. Mi permetto, mi consenta, direbbe qualcuno, siccome è stata detta una cosa un pochettino non corretta. Tutte le trasmissioni digitali di norma non, ripeto, non sono criptate, sono in chiaro, anche perché la criptatura è consentita solo alle forze dell'ordine e all'esercito, quindi non sono assolutamente criptate, con gli appositi strumenti sono perfettamente ricevibili da chiunque, anche molto molto molto economici, quindi basta un computer, un programmino del piffero e un po' di maestria, deve essere un po' bravo nei collegamenti a una radio e va tranquillo. Però non esiste la criptatura per quello che rimane il digitale, diciamo, non criptato, capito? La criptatura si può mettere in quasi tutti gli apparati professionali, anche quello che c'è Claudio, professionale non è, però non è consentita, ce l'ha ma non è consentita. Quelli seri di apparati hanno la criptatura proprio ad alti livelli, anche ai livelli massimi per intenderci, quelli militari, però costa 100 100 qualcosa, 120, 150 euro ad apparato. Però non parliamo di criptatura in maniera assoluta, perché è un'altra cosa. Il digitale è in varie versioni, c'è il CF, c'è quello amatoriale, c'è il DMR e c'è anche il Tetra, perché da poco vari radioamatori hanno fatto anche test sul Tetra, ma essendo un sistema a 4 slot la portata non è certamente entusiasmante, considerato che poi 4 slot vengono anche usati e non abbiamo tutta questa gente per avere un canale da 25 kHz diviso in 4 per fare 4 slot, quindi figurati cosa sarebbe che ne so, avere un megahertz è un pacco di canali enorme, ma non c'è la gente che li usi, quindi il discorso è quello che ti usa. Sì, Gianfra, sì, buonasera. No, io mi sono espresso così perché ho detto, volgarmente parlando, appunto, volgarmente, per non specificare come tu hai ben fatto adesso, volgarmente parlando, criptati, lo so che non si può criptare, però io ho utilizzato quel termine per far capire che sono quasi quasi inaccessibile. E tu hai detto, giusto, bisogna avere un computer, una radiolina, qualcosa che con pochi soldi si riesce a sentire. È giusto Gianfranco, hai fatto bene a intervenire. A te Claudio. Sì, ma forse mi sono spiegato male io poco fa. Io volevo dire, nel senso, stavo rispondendo a Franco, nel settore amatoriale noi usiamo l'analogico digitale, poi ho aggiunto l'SWL, compresi noi in digitale, e con i sistemi Tetra che ci sono, io siccome non sono pratico di computer, pratico di programmini, so che non si ricevono accidenti. Poi, per il sistema criptato, io intendevo criptato come la polizia, oggi di nuovo anche i carabinieri, il sistema che avevano prima del Tetra, credo che sia criptato, non lo so Gianfra, io non me lo intendo, però non si comprendiamo accidenti, quindi penso che sia criptato quel segnale lì. No, allora ti spiego. Attualmente la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, tutte le forze dell'ordine, anche i vigili urbani, sia le stesse sia le Italia utilizzano il Tetra. Il Tetra è un sistema che è criptato, c'è anche in chiaro, ma solo che loro, siccome devono avere delle comunicazioni riservate, ci aggiungono il cripto. Niente vieta comunque di disabilitarlo e farsi sentire in chiaro, ovviamente, perché c'è un altro apparato Tetra. Però di norma è sempre criptato. Poi la polizia utilizza anche il DMR, anche se pochi lo sanno. Ultimamente ho visto un bando in cui hanno acquisito circa, non so, 6.000 portatili più altri veicolari per i loro usi, diciamo, come si dice, per il nucleo anticrimine, credo, insomma quello che fanno le manifestazioni, per intenderci. Stessa cosa sia la Guardia di Finanza sia anche i carabinieri ce li hanno, per motivi diciamo di comunicazione soprattutto dirette di latenza, perché come stava dicendo Carlo poco fa c'è un'enorme differenza, un analogico sono più rapidi, più diretti e più sicuri anche, perché anche il DMR ovviamente può mettere criptature anche molto difficili da sentire, ecco, anche per gente esperta. Quindi c'è di tutto, capito? I sistemi comunque che loro usano essenzialmente è il Tetra, perché c'è la rete nazionale, che pochi lo sanno, ma credo la sede, il nodo centrale sia proprio a Cassari, grazie a Pisano. Sì, ma infatti a quello ce l'ho arrivato. Io ho fatto quel riferimento perché tutte le volte che appunto andavo ad ascoltare sentivo il clip inserito, quindi non si capivano accidenti. Tutto lì. E quindi sono rimasto a questo, a quel tipo di sistema. Poi so tutto appunto che se hanno fatto il passaggio a sistema Tetra, però sì, ho sentito anch'io che non hanno anche sistema DMR. E vabbè, ben vengano, d'accordo. Sì, basta attenzarsi da ieri, se vuole ascoltare, spende soldi come li spendiamo noi radioamatori, invece di farla abusivi. Avanti Franco. È un modo per muovere un po' il mercato, così come fanno quei televisori e queste cose, perché prossimamente dovremmo spendere una barca di soldi anche noi, sui 36. Sì, per spenderli sì, assolutamente. Mi manca soltanto un'altra radio e poi ho finito di comprare. Sì, un'altra radio. Non te la pensi che fai? Assolutamente, no, io già. Con questo arrivo del sistema digitale, anche se in piccolo, ma per l'uso, ripeto, me ne faccio io, sono anche troppo carico per quanto mi riguarda, ma troppo, troppo, per carità. Anzi, se qualcuno se lo dico qua apertamente, non ci sono problemi, lì dalle parti tue ha bisogno di un 275H 120 watt in VHF con le bande laterali, fammelo sapere. Base 275H base, questo a concordare, capito? Fammelo sapere, perché alla fine, cioè 910H, 275H e l'altro nuovo che ho preso, sono sempre tutti H, tutti H, alla fine rimane lì chi vivrebbe a Fagosa. Vabbè, se sento qualcosa volentieri, volentieri. Volevo fare la prova con le mie 185, la posso attaccare? Sì, sì, attaccalo, attaccalo, sono qua. Ancora 5 minuti e poi vado a portare il cane, attaccalo. Io mi sto riallontanando, se chiamate il prossimo rispondo. A dopo, ciao. Ehi, Gianfra, avanti, fra. BK, saluto Gianfra. Ciao, ciao, a più tardi. Cosa hai detto, se tu, Gianna, mi ammazzendi, fra. Non tengo più nulla. L'hai sentita? Appena arrivata subito a Bozzi. Amplifica molto quella... Chi è? Il microfono. Questo è il microfono di tavola. Ma questo c'è 85? Questo 85, sì. Sì, ma devi tirare su, stai. Non devi temere la radio, no? Dimmi male cose, va bene. E cosa devo tirare su, scusa? Questo è già quasi al massimo, capito. Però il processore non ho neanche inserito. Va bene? No, non è inserito. Allora, MC85, quando lo accendi, per poter funzionare il parametrico devi inserire la parte del compressore. Ok, è inserita, la posizione è in white alta. Che white? Cosa ti senti? Sì, ci sono due posizioni, bassa e alta. Come no? Lo conosco, è come che ce l'abbiamo avanti. A fianco al tastino d'accensione c'è l'altro tastino che dà i toni bassi e i toni alti. In che tonalità ce l'hai? Alta. Qui non ce n'è tastino, qui ho l'MC85 Campbell e tastino high, come dici tu, o bassi non ce ne sono. No, tu hai fumato una canna come Francesco Monte. Per forza c'è, per forza. Quando tu accendi il microfono, no? C'è spento, al centro è acceso, in alto va col compressore. A fianco a quel tastino, a fianco a quello, ce n'è un altro che ti indica posizione della voce, tono. C'è scritto tono da qualche parte lì, c'è scritto sì. C'è scritto tono, normale e basta, low cut, che è questo. Cioè, questo low cut vuol dire tagliare i bassi, volgarmente dicendo, l'ho capito, però non mi piace che mi sto ascoltando. Ok, poi mi dirai, è questo, e invece è l'altra versione. Ecco, questo va bene. Adesso, dove hai acceso il microfono? Mettilo in posizione comp. Fischia tutto. Compressore fischia tutto. Adesso dovrei avere la possibilità di modulare il processore della radio è disinserito, Processore della radio è disinserito. Allora, lascia il compressore del microfono spento, inserisci il processore della radio e poi mi dici a quanto hai i parametri dell'MC85. Aspetta, scusate gli amici, processore della radio inserito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova radio. Ok, a quanto ce l'hai il Mickey Gain, lo slider dell'MC85? A 7, considera che non ho equalizzato ancora in trasmissione, quindi la radio, l'equalizzazione non è stata toccata, è in flat, tutto normale. Allora intanto mettilo a 5 lo slider del Mickey Level. 5 vai. Parla. 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 5. Già non stai fischiando più. Adesso porta a metà i due slider, tutti e due assieme del parametrico, portalo a metà. Ecco qui, tutto assieme, vai. Ok, mettilo a 4 il mic level. A 4 mic level. C'è questo rientro, non ho capito io. Mi sto ascoltando con le cuffie, evidentemente rientra un po' in cuffia, capito? Togliere cuffie, togliere, già ti ascolto io, non c'è bisogno che ti ascolti tu, togliere cuffie. Sta fischiando lo stesso anche senza cuffie. Ma dove ce l'hai il microfono? Attaccato alla radio, vicino alla radio. Attaccato alla radio no? Aspetta, gli ho messo la ferrite, così vediamo un po' se cambia discorso. No, così non sta fischiando, parla. Aspetta, non fischia più perché gli ho messo la ferrita. Guarda, io non ce l'ho più l'85, se ti faccio sentire l'85 sul 440 da paura, è proprio la radio, non c'è te a fare, è proprio il digitale per la M. Non c'è niente da fare, è quello tutto digitale, no? Non spinge a te, non spinge, spinge più con l'MC60. Franco, come lo senti a te? Guarda, a parità di volume la tua modulazione è nettamente più forte, la sua è più opaca, più ovattata, più bassa, dai. Lo so, adesso ho levato il processore della radio, io mi sto ascoltando, sono perfetto, cioè diciamo perfetto di volume, di emissione, non sta fischiando perché gli ho messo due cose di ferrite, io il telefono sto scritto. Sì, allora attacca il processore ma porta la manetta che il tuo grosso, il mio 75, non sta spingendo, non sento acuti, non sento niente, fa un microfono normale. Non senti niente, adesso forse senti meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma il Michelin quanto ce l'hai? Sì, Santiago 9, è 9,20 l'altro giorno. C'è la manetta. Il Michelin della radio? No, della radio no. Qui perché è da vedere anche il Michelin della radio, capito? Direttamente dalla radio, perché lì all'interno della radio c'è anche l'equalizzatore in un'uscita e quindi c'è tutta un'altra regolazione da fare. No, io quella radio lì la usavo senza con l'equalizzazione della radio completamente a zero, quindi spenta, in off, ok, e mi andavo a equalizzare l'MC85 e mi facevo i parametri Mickey Game, processore e microfono, l'equalizzazione completamente tolta, e se mi metti a equalizzare in trasmissione la radio, equalizzi il microfono, spingi col processore, è chiaro che c'hai tutti questi rientri. E poi io ho avuto dei picchi negativi quando lui modula, tende a scendere l'acqua, come mai? Quello è il picchio, Sì, una radio non è analogica come questa, della stessa marca, ma non è analogica, è un digitale, capito? Quindi io non posso parlare più. Quindi è normale che scenda? Sì, no, non è normale, c'è qualcosa che forse, no, io, vabbè, stazionario non ne ho. Adesso ho ricollegato l'MC60, normalmente, vediamo un po' di trovare un po', vediamo un po'. Ce l'ho basso, tutto il microfono è basso qui. Ma è sempre in posizione amplificazione l'MC60, sì? Sì, quello io non ho toccato niente, lo so come funziona l'MC60. Soltanto che il mic gain della radio, diciamo, è a 50. Oh. Poi l'equalizzazione in trasmissione, ci sono quattro situazioni. Io l'ho messo in flat, cioè vuol dire tutti i parametri a zero, per non influire appunto sulla modulazione, sulla voce, su niente. Capito? E quindi niente. Adesso sto tirando su ancora il mic gain, ecco, adesso è al massimo. Allora ti posso dire una cosa, che il mic gain di quella radio non agisce se tu non fai agire l'equalizzazione in trasmissione. Vuoi vedere? Dai equalizzazione in trasmissione. Aspetta, vediamo un po' se agisce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sì che agisce, e a voglia, 1, 2, 3, 4, sono a 20 adesso, 20, 50, 55, ma da qui in poi non cambia niente, ora sono a 100 al massimo. Guarda, stranissima, molto, molto strana, io mi ricordo che la mia andava molto, molto più forte. Non ai livelli di questa, del 440, però spingeva molto di più, non so, non noto nessuna differenza delle variazioni che abbiamo fatto, è come che stai usando lo stesso microfono con gli stessi parametri, non mi cambia niente. Ecco, adesso sono nel menu Fix Equalizer. Adesso abbiamo fatto un trasmissione, vediamo un po' Fix Equalizer. Aspetta, ecco qua, conventional, adesso abbiamo conventional, poi abbiamo user, booster, ecco questo più con i bassi, questo taglia i bassi, questo c'è gli alti e questo in off, non ha niente, proprio a zero. No. È come che stai usando sempre lo stesso microfono e sempre gli stessi parametri. Non noto nessuna differenza, tu fai notato differenza? Sì, qui cambiava, la modulazione da bassa è diventata più alta, però è sempre bassa, ma come che lui stia parlando anche male, lui un po' da lontano, forse parla più piano di te. No, è che lui c'ha un analogico, io cioè c'ha un digitale e c'ho un analogico. Della stessa marca, sono due cose completamente diverse. Poi quella radio lì è molto particolare, io l'ho avuta appunto perché in AM non lo usavo, ho preferito prendere una di queste analogiche vecchie perché non mi soddisfava, non spinge, nulla. Bella radio è, per carità, ottima per la truppa, ma io la voglio più grintosa. Sì, ti ho capito. Qui tutti gli altri parametri da cosa sono questi, non, guarda, adesso sono proprio a due dita dal microfono. Mi sto ascoltando, non fischia più perché gli ho messo due ferriti, un'entrata e un'uscita nel microfono, quindi non ha più quel rientro, però non c'è processore. Lo so, però non trovo nessuna differenza. Bene, allora, per essere più pratico usa 60, posizione amplificazione. Lasciala così, ma guarda, io mi ricordo a Elio quando l'ho provata una M, insomma, mi ricordo con quale microfono, ma era una bomba, anzi gli avevo detto di abbassare perché a volte andava anche a strappare. No, non lo so. Comunque non è fatta per la M, sappiamo tutti che non è fatta per la M la radio, per cui io so che in banda laterale viene fuori tutta la radio. No, ma stiamo parlando di un pianeta completamente diverso. Infatti non so se mi hai sentito, ti ho detto io quando ce l'avevo ero molto entusiasta. Il giorno che l'ho provata in M, ho detto tu lavorerai da oggi poi solo in V e in U, basta. Infatti in AM non l'ho mai più usata, avevo preso il 430 da Walter e usavo il 430 in AM, capito? Perché non mi soddisfava, non aveva quella grinta che piace a me, capito? Questa modulazione. Sì, lo so, io la sento, mi sto sempre riascoltando col monitor a 2, proprio basso, la modulazione è tranquilla, lineare, io sento così, è pulita soprattutto, questo non parlo, sentirete anche il rumore di fondo se non parlo, però, vediamo con il processore, vediamo un po'. Andiamo subito. Ehi, Afra, no, ma non c'è, non ci sono dubbi, aspetta, facciamo una prova io. Aspetta, radio. Ho dei cavi di potenza, non so se qualche PL. No, cosa magia se l'ha pigliato. Questo è il 430, vedi che io non uso mai. Speso una barca di quattrini per farlo revisionare. Ho dei cali di potenza allucinanti, di quasi 10 watt ogni tanto, con la T230. Ola. Vabbè, stazionarie. Uno, rapporta 1. I watt sono a posto. Vabbè. Bravo, adesso ho messo il processore, ma lo sento anch'io che non c'ha quella spinta, lo sento. Processore, smorza tutto. Secondo me il processore smorza tutto quanto, invece normale è diverso. Sta facendo proprio masso masso, Transito tu boioso. Grazie, buonasera, ciao a tutti e due. Ma se è basso di radio, mi sembra che stai usando un microfono di coso, di un portatile. Sì, va bene, Tommy, sarà basso, chiaro, pulito, no, no, stai, va bene, però non c'ha quella grinta che hanno queste serie qua che tu ben conosci, capito? Vabbè, dai, io mi devo lasciare e andare a portare il cane. C'è Antonello, ti lascio in compagnia di Antonello. Franco si è allontanato un attimo, già rientra subito, dai. Poi c'è anche Gianfranco in Corix. Ci sentiamo tra un attimo, vado a portare il cane e torno dopo. D'accordo. Ogni passo che metti tu, un cucuao devi fare, capito? Grazie caro, io te l'appoggio, tu sì che mi camminevi. Capito, drogato. Ma sei così basso di radio, ma non ti ho mai sentito così, la verità. E cosa vuoi che dovevo urlare? Beh, cambio il microfono, metto un altro che urla di più. Aspetta, metto il Tanner. Prova quella, è strana la cosa, casa. Sì, molto basso di radio, ma basso. Sarà 3, 4, non di più. Ciao, Pomponio. Ciao, buonasera a te, salutoni, ben sentito. Ma io dove sei, a casa? Sono a casa, non c'è problema. Allora, sì, anche io, infatti l'ho anche registrato un po', se vuoi sentire la differenza, ho due passaggi tra Claudio e lui, glielo faccio sentire, anche se non sarà al massimo. Drogato. Io vado quello che è, ma comunque sia basso di radio, ma veramente è allucinante. Prova un po' stai adesso. Adesso ho messo la mia più 5, drogato che non sei altro. Non ne cambi molto la vita. Sembra che stia usando il microfono normale. Ci avrà battere anche scarica. Sì, lo so, Antonio, non sta andando bene questa cosa. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, forse è migliorato qualcosa? Ah, è ora. Cosa è successo? Perché? Cosa è cambiato? Adesso va bene. Troioso. Ah, fa il culo a te, cazzo, così i microfoni di merda con quei cazzo di apparecchi. Usa quello. Adesso va bene. 5 amplificata. Perfetta, guarda. C'è la batteria scarica con questo microfono anche. Cade la batteria, fottidini. Comunque adesso stanno veramente bene. Ma molto meglio di poco fa. Confermo anche io, Il doppio stai uscendo, non poco, il doppio. Il doppio. La mia più 5 è bassa. Ho sentito il processore e boh. Già non è nulla. MV più 5 io ho sempre detto qualità prezzo. Sono dei buoni microfoni. E ti dirò, anche come tonalità e modulazione, molto più bella. Ma molto più forte come ti ha detto Antonello, capito? Alla grande. Quindi gli altri microfoni metti dentro l'armadio perché devi usare il più 5. Vado a portare il cane a dopo, vai Antonello. Non c'è paura per quello. Se ci metti un saletta lì, sai come ci turboisci in quell'apparecchio, Ascolta, banda laterale ne avete? Sì, a voi avrebbero una banda laterale, quale vuoi? 1, 2, 3, 4. No, restiamo sempre qui, mandiamo in USB. Unifor per Santiago Bravo. Unifor Santiago Banana, ho capito. Tu ce l'hai fra lo stesso? Sì, capa, non so se va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, meno, però con la tre volte meno che un altro contesto. Infatti tu eri, Antonello era 075.25, tu eri 074.85. Io un po' corretto per cercare un compromesso, però se sentivo meglio te, più male lui. Sì, sì, altrettanto ho fatto anch'io la stessa cosa, era uguale il procedimento, ma... è così, è così. Ragazzi, sono quasi le 8, mi devo lasciare perché ho un po' da fare qui al QTH. È stato bello sentirvi anche oggi, io faccio QRT. Ciao Antonello, ciao Franco e chiunque fosse l'ascolto, QRT per me. Ciao, ci sentiamo domani. Ciao, sera, dai, buona serata. Mi prendi Antonello. Ok, yeah, ciao, se ci stiamo male, alle prossime. Aspetta che vado a controllarmi la pizza, se no si capoggia come stamattina. Che ce l'ho messo adesso. Impizzando, sai. Ah? Impizzando, sai. Con le pizze di Rosfino, lo sai che quando è come il latte, quando ce le mette dentro, non le guardi e cucinano subito. Quelle, come si chiama, quelle rettangolari? Esatto, sì, quelle rettangolari, quelle al francio. E ogni tanto le prendiamo anche noi, gli faccio il condimento però a parte, dai, gli metto un po' qualcosa sopra, l'origano fresco, e ti dico che non sono malvagie. Lo so, aspetta che controllo se è cotto, non sai che si bruci. Vabbè, ci andati via, siete. Sì, claro, sono quasi tutti andati via, poi un po' che sta mangiando la pizza, mi sa. E di traverso deve andare. Ho detto, allora, questo è il 440, molta differenza c'è dal 430. Ma non hai cambiato adesso? Sì, questo è il 440, l'ho fatto usando il 430, molta differenza c'è, sono uguali, no? No, sì, vanno bene tutti e due, cioè si sente che è proprio corposa. Adesso ti commuto, ti metto il coso, il 140, guarda la differenza, se c'è differenza. I microfoni sono 3 MC60, non 1 per 3 radio, no, 3 radio, 3 MC60, ok? Adesso ti commuto al 140, se non ti differenza. Allora, questo è il 140, Fra, com'è la radio? Diversa dall'altra o uguale all'altra? Questa è leggermente più rimbombante, però è... forte anche questa, sì, è fortissima. Forte anche questa, no? Vedi bene, quindi le radio sono tre radio completamente diverse, 430, 440, 140. I microfoni sono 3 MC60, che sono uguali, però sono uno per ogni radio, e l'analogico è così, non c'entra a fare. Mentre il digitale di questa categoria è... spinge di meno, ma in banda laterale in FM è strepitoso, però in AM è così, non c'è niente da fare, ma io noto tutti i digitali, se io dovessi andare in AM con l'ICOM è la stessa cosa, né più né meno. Sì, ma comunque cambiando il microfono cosa ha messo? Non mi ricordo, si sentiva nettamente più forte. Sì, perché l'MB più 4 c'ha l'amplificazione, c'ha la regolazione, l'MB più 5 c'ha la regolazione dei toni, quindi sicuramente va a correggere quella parte che manca della sua corda vocale, capito? Perché io ho le corde vocali molto alte, lui avendo le più basse ha bisogno di un microfono che spinga di più di quello che ha. Sì, infatti sicuramente lui parla in maniera sicuramente più bassa, più soft di te. Attenzione che io non grido, è proprio la tonalità che ho, capito? E le corde vocali molto alte, quindi però io non è che sto gridando, sono a 30 cm dal microfono, la mia posizione è sempre questa. Però la differenza che c'è tra l'analogico e il digitale è come sezione di radio, perché quella è tutta digitale, capito? Queste invece sono analogiche a circuito tutto analogico. E quindi è così, e non c'è niente da fare. continueranno a essere per sempre vita natural durante, gli analogici della Kenwood continueranno a essere sempre il numero uno per la M, non c'entra a fare. Ma così nel più ce l'hanno in AM, eh? Accurata di più, perché se tu vai a prendere un 757 GX2 analogico come il 140, che è molto più bello il 140, manco parlato, o qualsiasi altro tipo di radio analogica, no, in AM non spinge come spinge il Kenwood, non c'è da fare, è la modulazione, ma io te lo dico con molta sincerità perché grazie a Dio dall'83 a oggi che uso questi tipi di radio in AM le ho provate tutte, dall'A alla Z, non c'è niente da fare, ma neanche le vecchie 130, il 120, il 930, l'830, l'820, cioè tutte della categoria analogico proprio prima ancora di queste, in AM non vanno come vanno queste qua, non c'è niente da fare. Non lo so, a volte sento qualcuno in... sui canali alti, dove fare di X, dai. Sembrano degli apparati tipo valvolari, hanno una modulazione non molto alta, però bella calda, cioè io la rassomigliavo a una di quelle modulazioni lì. Sì, ma guarda, calda, se io ti attacco il DAC che c'ha lo stereo finale a valvole, con l'MB più 5, non pensare che si allontani molto la modulazione da questa, perché sono sempre io che vado a portare quel microfono da 2 lire con una modulazione molto molto alta, molto insomma presente, perché la corda vocale è quella, non c'è da fare. Sicuramente la voce aiuta, dai, vuoi quel tono in più. Cioè Massimiliano col suo 140 l'ha portato qua, l'ho provato io per farglielo sentire, mi ha detto da paura, passa, se lo prende, lo porta a casa sua, una delusione allucinante, ma allucinante veramente, cioè proprio non... la spinta c'era ma la modulazione è completamente diversa. Sembra strano, ma è così. Ma lo dico perché ma è così, cioè tutti quelli che hanno usato questo tipo di radio, che continuano a usare ancora oggi questo tipo di radio, non ottengono mai la modulazione che ho io, tranne qualcuno, un Fabrizio che esce molto bene, un Tino esce molto bene, ma siamo in pochi, perché ci vuole sempre quella spinta di corda, proprio di voce, che fa sì che il microfono vada veramente forte, capito? Ma altri, Gianni, quello Gianni è strepitoso, bellissimo, questa radio l'ho venduta io, cioè che l'ho fatta vendere io, non va, Valerio usa quella ma non esce come questa, non c'entra a fare, è proprio questione di modulazione. Sì, sembra proprio un'altra radio, in bocca tua diciamo, in mano tua. Sì, ti ripeto, siamo in pochi, siamo molto pochi, Fabrizio c'è una bellissima modulazione che non ha in AM con questo tipo di radio, Tino lo stesso, vedi tu Giulio che c'ha la stessa radio che ho io con lo stesso microfono, non spinge come vedi, l'unico che fa spingere molto, anche troppo, è Gianni KP2 perché si mette a gridare, è un orco lui parlando, capito? E quindi c'ha una modulazione molto grossa e quindi deve tenerlo anche più basso di me. Ma ti ripeto, sono quelle poche persone che spingono di petto, come diceva Antonio Gobbero, hanno le corde vocali molto molto alte e quindi fanno sì che la radio spinga. Ma Stefano già c'è una voce molto, molto bassa, molto appaccata, evidentemente ha un bisogno di un microfono che vada più alto. Sì, infatti anche secondo me è proprio il suo modo di parlare che è così, e quindi alla fine la voce che esce è quella. Sì, è come la banda laterale, io ne sento tante, un Marco Scorpion in VX risulta sempre il number one, a parità di radio di altre persone, perché hanno una modulazione splendida, la cura tantissimo e fa sì che la radio va bene. Altri ne sento, vanno bene, ma non quanto lui, capito? Si tratta sempre di avere la voce a quel livello che il microfono riesce a sopportare, ma quasi al massimo, però facendo sì che non vai in distorsione e non vai a intermodulare, quindi deve essere bella la voce, capito? Poi visto come tendeva a innescare, invece da te, pur essendo più forte, non si sente nessun innesco, comunque perfetto. Nulla, guarda, io ho il Mickey Gain del 140 che è questo, ce l'ho al massimo, processore inserito e posizione in l'amplificatore del microfonico, capito? All'interno dal trimmerino dello slider, leggermente un pochino più basso, ma diciamo che ce l'ho quasi al massimo il mic gain. Però la modulazione è forte, ma non va a strappare, è bella corposa, e così deve essere quella sua. Però siccome lui usa una radio diversa da questa, con un sistema digitale, non analogico, è chiaro che non va a spingere come deve essere. La prima si è fermata su un analogico e ha curato tutta la parte, sia M, FM, SSD, allo stesso livello, mentre altre case costruttrici hanno fatto sì che le radio funzionassero, come la Yaesu, molto bene in FM e in SSD, mentre della M non è mai fregato niente, tanto è vero che la Yaesu mi pare che sia l'unica casa costruttrice che in AM ha tutte le radio che non funziona il processore. Ma cavolo, è l'unica cosa che spinge e tu non la fai funzionare. È proprio inibito. Non funziona, in AM è disinserito. In AM non esiste, capito? Non esiste, solo in SSB. Mentre la Kenwood e anche la ICOM, perché ho 756 Pro 2, il processore funziona in AM, capito? Il compressore, quello c'è nel processore, funziona. Mentre la Yaesu proprio ha detto non me ne frega niente, tanto è vero che non vanno quelle radio. Beh, nessuno ha mai portato modifiche, no? Io sono rimasto un po' indietro, perché della Yaesu le ho prese quasi tutte le analogiche. Ti posso dire che 757 GX era la prima serie, non ho fatto il 757, poi ho fatto il GX e poi il GX2, tutte e tre con caratteristiche uguali. Quindi cosa fai, tre radio o mi scrivi GX, GX2, quando il funzionamento è uguale a quello della prima serie che hai fatto? Mentre le varie serie che ha fatto, per dire la ICOM, ti porto un'ipotesi, del 756, perché lo conosco, è partita col 756 normale, poi ha fatto il 756 Pro apportando delle modifiche molto interessanti per quanto riguarda tutta la parte della banda laterale, è andata a fare altre modifiche sul 756 Pro 2, sul Pro 3 si è proprio allargata al massimo, dove una radio splendida con delle prestazioni ottime, però le modifiche sono state fatte. La Yaesu è rimasta lì, si mette queste scritte, ma non vedo nessuna cosa. Ehi, dai, aspetta che qui mi stanno chiamando, forse vogliono prendere una pizza. Ehi, ho sentito Anna, Margherita, Giovanna, ci abbiamo noi a cena stanotte, Margherita se n'è andata. Si sente tutto anche con questo microfono? Ma che, sente Gianna, Margherita? C'è la manetta, come hai detto tu, ma forse bisogna meglio abbassarlo. Ah, c'è lo stare che non succede niente. Hai visto Anna che andava in strada? Ce l'aveva con Filippo perché è mezzo IP, però sempre a boghe. No. Dai, fra, se devi fare, fai, già sono qua io. No, già fatto, già ordinato. Va bene, capito, fra. Vedi, adesso sono in piedi, sono un metro e più dal 60. Però la spinta rimane sempre quella, magari più rimbombante, ma è sempre quella, Sì, aspetta, provo io. Adesso sono più o meno a me, quanto il braccio. Mi senti bene? Sì, alla grande. No, anche questo è un bel microfono, mi ricordo quando l'ho pensato Anna, la ragazza. Mi piaceva ascoltarla perché forse è una bella modulazione. No, va bene, ma io più 4 e più 5 li ho sempre tenuti molto in considerazione, c'ho il più 2 e il più 3 che fanno parte di un'altra categoria, però ripeto, come dico sempre, qualità prezzo, più 4 e più 5 sono degli ottimi microfoni che ti permettono di uscire bene, sempre chiaramente adattandolo ad una radio che riceve quel tipo di microfono, perché altrimenti è utile adattarlo. Anna invece aveva... Non mi ricordo, però non usciva bene, invece con questo Shure mi piaceva di più la modulazione. Forse le MV più 4 o le MV più 5, non mi ricordo, però poi alla fine ce l'ha venduto perché non usciva bene come questo. No. Dipende. Se tu vai a inserirlo, magari vedi, io ho il panel più 3, col DAC trova troppo acuti, nonostante la mia modulazione abbia anche un po' di tonalità medio-bassa. Fatto pacuti, sono costretto ad usare il più 5 che riesco a regolarmi la tonalità e non darle quella caratteristica troppo alta, capito? Perché gli acuti poi diventano un po' fastidiosi, tutto qua. Sì, sì, no, fa... qui arrivi veramente bene, bella, forte, c'ha tutte le frequenze, c'ha i bassi, gli alti, i medi, è completa come modulazione. Sì, poi guarda, 140 come caratteristica è quella radio che ti dà quella tonalità buona, quella tonalità ben paccata, ben, soprattutto i medio-alti, che sono molto importanti. Il 440 spinge un po' di più, però riesce ad avere troppi acuti e a volte non vanno bene, tanto è vero, io il Mickey Gain del 440 ce l'ho a 1, proprio in mezzo, tra lo 0 e l'1. Cosa che non potrei fare con il 140, perché praticamente è come che stai usando un microfono normale. Col 430 è la stessa cosa, il 430 spinge lo stesso molto molto bene. Però oggi non so se qualche PL, perché c'ho il commutatore d'antenna che me l'hai commuta tutte e tre, se qualche PL o qualche spettone ogni tanto mi si abbassava la potenza, quindi qualche falso contatto c'è, cioè, le stazionarie sono sempre lineari a 1, rapporto a 1, quindi non è un problema di sicuramente qualche spezzone, vabbè. Lo controlleremo, non la Giugana va. Va bene Fra, dai, io ti saluto perché qua è pronto, sono le 8:20, salutami Anna e ci aggiorniamo. Sei un po' assente in questi giorni, ma comunque anch'io un po' di impegni con questa casa che a tutte le ore c'è gente, poi mi sto spostando un po' anche dall'altra, quindi sono un po' assente, dai, però già ci sentiamo. Ok? Ciao, saluto a tutti e ci aggiorniamo domani. Capo, no, anch'io sto facendo altri lavori, altre cosucce che purtroppo riportano via un sacco di tempo, poi mai di persona ne potremo anche parlare. E quindi anche io sono costretto ad abbandonare un po'. Mi saluti tutti, anche tu, Anna e famiglia. E alla prossima, dai, buona cena, buon tutto, alla prossima. Ok Fra, d'accordo, dai, contraccambiato anche la parte dell'aria di Anna e ci aggiorniamo. Ciao. Ciao.